24 mattino di Alessandro Milan. Buongiorno, buongiorno, sono le 7:20 minuti, buongiorno anche a Carmelo Lauricella in regia. Oh, siamo qui, siamo in diretta a santificare la festa del lavoro lavorando. Eccoci qua. Siamo in diretta fino alle 9, ci siete? 349-238-6666 per i vostri messaggi, dai, sosteneteci, diteci anche voi che siete svegli, magari siete nel letto, ci state ascoltando e va bene lo stesso, siete presenti comunque. Noi avremo ospite oggi Marco Cappato dei Radicali, è un consigliere comunale a Milano che si trova in Olanda, dove entra in vigore la legge che proibisce da oggi praticamente di dare agli stranieri, quelli che andavano in Olanda per andare nei coffee shop, gli spinelli, le erbe, insomma la marijuana, ora è vietato. L'Olanda ha deciso di dare un taglio a questo e Marco Cappato oggi vuole sfidare questa legge infrangendola, questi radicali, E poi, a proposito di legge infranta, noi parleremo oggi dalle 8:30 di vivisezione. Bene sì, un tema che è tornato alla ribalta dopo che alcuni attivisti animalisti hanno liberato un centro in provincia di Brescia dove si allevano i beagle, i cani beagle per la sperimentazione. Sono stati arrestati, ora sono stati liberati. Ma insomma il tema è quello, sperimentazione scientifica sì o no, l'utilizzo degli animali anche per sperimentare i farmaci che poi devono essere utilizzati per l'uomo. Ne parliamo alle 8:30. Insomma, siamo in diretta, come vedete, e sono in diretta anche i giornali. Li trovate in edicola e andiamo a sfogliarli. 24 mattino. Siamo qui alle 8:21 minuti, siamo in diretta. Ringrazio tutti quelli da Walter, da Rossana, anzi Rosanna da Bologna sotto la pioggia, Enrico che sono qua con noi. Enrico è anche il suo compleanno, auguri. Saluto Marco Cappato, buongiorno. Marco, buongiorno a voi. È Marco Cappato dei Radicali, è consigliere comunale a Milano. Però si trova in... Dove si trova Cappato? In Olanda. A Maastricht, in Olanda. Ah, sarà un qualche vertice europeo. No, ovviamente il motivo è questo. Allora, senza farsi ipocrisia, quante migliaia di turisti sono andati in Olanda per anni perché l'Olanda ha una legislazione, sempre è stata molto permissiva dal punto di vista delle droghe leggere cosiddette, cioè entrare nei coffee shop di Amsterdam. Ora è vietato. È vietato da oggi, tra l'altro, a partire da oggi, no? Diciamo che in realtà da oggi scatta un divieto per il sud dell'Olanda, che poi si prevede possa essere esteso anche al nord di Amsterdam, per tutti i cittadini di nazionalità non olandese di entrare in questi locali. Si potrà entrare soltanto muniti di un pass. Sì. Ottenuto dopo essersi registrati presso l'autorità pubblica e riservato ai soli residenti. E quindi Marco Cappato, da buon radicale, che cosa farà? Infrangerà la legge, ovviamente. No? Noi siamo stati invitati dalla stessa associazione dei coffee shop olandesi che aveva comunque richiesto delle regole, perché effettivamente questo problema della eccezione olandese crea anche, diciamo, questioni di ordine pubblico e di gestione di una certa difficoltà. Dal nostro punto di vista, naturalmente, questi dovrebbero essere risolti al contrario, cioè rendendo meno folle la politica europea piuttosto che rendendo meno saggia la politica olandese, e questo per combattere la criminalità e anche per lasciare alle persone un margine di libertà e responsabilità. La libertà. Senta Cappato, sa chi la affido? Le faccio un regalo qui a Oscar Giannino, che sicuramente conosce, che è arrivato, eccolo qua. Buongiorno, buongiorno Cappato. Allora, ciao Oscar, buongiorno. E Oscar, qui c'è Marco Cappato che... Ma però tu credi che va in Olanda? No, al solito caschi in una trappola, perché naturalmente essendo io un libertario, io capisci che per me ci sono qui tre punti fondamentali in gesti come quelli che oggi compie Cappato. Primo, una riflessione su qual è il significato dell'antiproibizionismo. L'antiproibizionismo è collegato a un'interpretazione delle conseguenze delle leggi penali che intervengono in materie come le droghe, l'alcol ai tempi del proibizionismo americano, eccetera, eccetera. L'effetto del proibizionismo, che è apparentemente una delle manifestazioni dello Stato etico che ci dice cosa fare, cosa non fare, perché lui sa che cosa è buono, che cosa ottiene? Come ai tempi del proibizionismo dell'alcol in America, così nelle droghe, si consegnano interi settori della vita alla che viene criminalità. Alla criminalità, questo... all'illegalità, dopodiché il fascino del proibito sappiamo che cosa ingenera in chi ha problemi nella vita e quindi prima questione è una riflessione di ordine generale sui limiti dello Stato. Secondo, gesti pubblici. Pubblici come quelli che vengono compiuti dalla tradizione antiproibizionista, oggi da Cappato, ma insomma c'è una lunga tradizione in questo dei radicali, che è una tradizione meritoria, invitano pubblicamente violando una norma che si considera impropria, illegale e con conseguenze negative, a riflettere pubblicamente, attraverso l'assunzione delle conseguenze sulla propria persona della violazione di legge, sul fatto che quella legge è due volte sciocca per i fenomeni che crea, che abbiamo detto e per prima, e per gli effetti. A proposito di effetti, Cappato, lei cosa rischia? Questo metodo, se mi consente, andrebbe applicato rispetto a quello che è lo Stato italiano in una ben pluralità di campi. Perché... So già, venendo in Italia, magari campi italiani. Per applicare, per esempio, in materia fiscale pubblicamente questo metodo, non l'evasione che io non difendo, l'evasione che ognuno a casa sua si fa, dice adesso aggiro lo Stato. Ma il giorno in cui organizzeremo questa fiscale. Cosa in maniera pubblica e ci esporremo intanto Genere d'Italia a dire carceratemi per questo, è l'applicazione di questo non grandissimo, so se nobile metodo gandiano. Si spingerà a questo. Cappato, lei cosa rischia? Rischia qualcosa oggi? Intanto aggiungo, rispondo subito, aggiungo al ragionamento di Giannino che un mercato come quello olandese, se fosse applicato quindi in maniera regolamentata in tutta Europa, avrebbe anche dei i benefici, diciamo così, fiscali, cioè regolari, di un mercato che invece oggi è nei nostri paesi totalmente affidato al profitti illeciti, quindi nemmeno tassati da questo punto di vista della criminalità. Oggi dobbiamo vedere come si potrà svolgere, nel senso che ci sono due fasi, una appunto d'accordo con i proprietari di questi coffee shop, dove loro inizialmente rifiuteranno l'ingresso e allora con altri cittadini non olandesi ci recheremo a denunciare questo fatto, sperando di innescare c'è la legge, sulla base di questo rifiuto, sperando di innescare un'iniziativa giudiziaria che possa portare anche alla Corte europea per quanto riguarda la libertà di circolazione e di accesso a locali che comunque sono pubblici per cittadini dell'Unione europea, perché si pone anche un problema proprio di libera circolazione. Di veri e propri cartelli che vietano lo stesso accesso ai locali da parte dei non residenti. Dopodiché, in realtà, la vera disobbedienza, il maggiore rischio è in capo a questa associazione di coffee shop, perché nella seconda fase dell'iniziativa dovrebbero poi essere loro a lasciarci entrare nei locali e quindi... Loro infrangeranno qualche la legge, ma anche lei però, no? Credo di sì, ma non so francamente non ne con sa quale le conseguenze di responsabilità. Non ne sa le conseguenze, però noi nel frattempo, nel ringraziarla, dice, stiamo a vedere, non vorremmo mai vedere Cappato in manette. Questo perché per la verità l'ho già fatto quando a Manchester qualche anno fa c'era stato una serie di arresti su un'altra questione incredibile, cioè quella della marijuana terapeutica, perché ricordiamoci che su alcune malattie come la sclerosi multipla, ma anche dei trattamenti laterali per il cancro, cioè per l'inappetenza derivante dalle cure anticancro, la cannabis è prescritta, dei medicinali a base di cannabis, la stessa cannabis contro alcune malattie, e il fatto che sia in realtà proibita a dei malati credo che sia ancora più stupido che non ancora più folle che non per l'uso ricreativo. Sì, certo. Quindi, intanto, qualche anno fa accadde anche questo a Manchester. Intanto la ringraziamo da Maastricht in Olanda, grazie, dove la prima parte del paese, finalmente una buona ragione per ricordare Maastricht. Oscar, voi dovete saperlo, cari ascoltatori, è un amante dei gatti. Miau. miau, infatti l'ha messo anche nella sigla. Noi tra poco parliamo di vivisezione, una parola già che è messa così, diciamo sperimentazione anche sugli animali per sperimentare i farmaci che poi dobbiamo utilizzare tutti noi esseri umani. Allora, il blitz di recente di un gruppo di animalisti, di associazioni che hanno liberato i cani Beagle, credo 12 o più o meno cuccioli, da un centro dove si allevano questi cani per poi darli ai centri di sperimentazione, ha fatto riemergere il problema. Allora, le persone che hanno fatto questo blitz sono state tutte scarcerate ieri in serata. Dicono per liberare dei beagle questo e altro, per liberare degli esseri, degli animali che sono destinati alla morte tra sofferenze, questo e altro. La società che invece gestisce questo centro dice: noi facciamo tutto in maniera legale, li gestiamo. E insomma, il tema è quello: sperimentazione dei farmaci con l'utilizzo di cavie animali. Ne parliamo tra poco dopo la pubblicità del metro. C'è anche Oscar Giannino con noi. Viva il 1° maggio! Che fa la cavia anche lui, come spiegherà. Alle 8:34 minuti, eccoci qua. Allora, sono stati, dal punto di vista della cronaca, tutti scarcerati gli attivisti che hanno fatto questo assalto a Montichiari. Hanno fatto un blitz dove c'è un laboratorio in cui vengono cresciuti dei beagle per poi essere destinati alla sperimentazione nei laboratori. Il tema è quello della sperimentazione sugli animali per quella che viene definita vivisezione, ma in realtà con un termine anche improprio, comunque la sperimentazione nei laboratori sugli animali per poi testare i farmaci che tutti noi dovremmo utilizzare. Ne vogliamo parlare con Giuseppe Remuzzi, che è dell'Istituto Ricerche Farmacologiche Mario Negri. Buongiorno professor Remuzzi. No, buongiorno. Grazie per essere con noi. Saluto anche Michela Quan, che è responsabile nazionale del settore vivisezione per la LAV, cioè la Lega Antivivisezione. Buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno a lei. Saluto anche, lo risaluto, Oscar Giannino, eccoci che è qui qua con noi, noto amante di gatti, ma prima ci dicevi anche cavia. Che sì, vuol dire? Cavia, perché come paziente oncologico molti anni fa mi sono sottoposto e ancora adesso faccio parte, c'è un protocollo sperimentale che tu puoi firmare per dichiararti spontaneamente disponibile alla sperimentazione di principi attivi che non sono stati ancora, non hanno ancora passato tutti gli esami per così dire per entrare nel protocollo sanitario nazionale. E poi quando mi sono operato alla spina dorsale per un problema molto serio di cancro che avevo lì, anche per tecniche di intervento non invasiva, quindi io dichiaro con grande piacere che quello che, a cui mi sono sottoposto e mi sottopongo serve anche agli altri, e questo per me in piccolo è un piccolo contributo poi al progresso della ricerca, insomma. Allora, questo è il punto di partenza. Professor Remuzzi, io le vorrei fare un paio di domande molto chiare per sgombrare il campo degli equivoci. Allora, questi beagle che sono stati liberati, eccetera, erano cani destinati a che cosa? Destinati alla sperimentazione e dunque anche alle sofferenze e dunque anche alla morte? Ma guardi, ci sono fondamentalmente due tipi di ricerca che si fanno sugli animali. Una, come ha detto lei all'inizio, è la sperimentazione sui farmaci, e in questo caso gli animali subiscono le stesse sofferenze che subiscono gli uomini quando prendono una pastiglia per bocca o uno sciroppo, oppure quando gli viene somministrato un farmaco endovena o attraverso una flebo. E poi ci sono delle attività chirurgiche che si fanno sugli animali. In questo caso gli animali vengono trattati esattamente come l'uomo. Noi per esempio facciamo nei topi il trapianto di rene per provare il modo di consentire all'organismo di tollerare l'organo senza farmaci antirigetto. Questa chirurgia viene fatta in anestesia generale, perché si immagini lei se sia mai possibile operare un animale che soffra. Quindi il termine vivisezione è assolutamente improprio. L'animale non deve soffrire per definizione, se no il risultato dell'esperimento però, sarebbe diciamo vengono provate, mi permetta di usare termini non scientifici, vengono provate delle tecniche prima sugli animali per vedere se poi possono essere anche utilizzate per gli esseri umani. Questo aspetto che pone un po' la contrapposizione, meglio salvare un umano piuttosto che un animale, o meglio provare sull'animale per poi salvare un umano, a lei piace questa impostazione o un'impostazione corretta o sbagliata? Ma guardi, c'è un limite a tutto il ragionamento che le posso fare io durante questa trasmissione, ed è quello: se noi consideriamo che un uomo sia uguale a un cane, a un ratto, a un topo, a un insetto, allora il mio ragionamento cade tutto. Ma se noi pensiamo che l'uomo sia diverso dal cane, dal gatto, dal topo, dal ratto e dall'insetto, allora dobbiamo incominciare a ragionare se non è il caso di sperimentare delle tecniche anche chirurgiche su un animale prima di provarle su un bambino. Beh, questo è un punto fondamentale. Guardi che lei ha centrato il punto fondamentale. Prima di andare da Michela Kwan, vorrei, Oscar, questo è il punto fondamentale, cioè l'uomo è uguale nella considerazione e nel massimo rispetto che dobbiamo a tutti gli esseri viventi, è uguale ed è paragonabile a un cane? È uguale e paragonabile al gatto? È uguale e paragonabile al topo? Oppure, o qualsiasi animale, oppure può essere messo in primo piano e in nome di un interesse superiore, quello della tutela della salute dell'uomo, si può agire, so che è messa brutalmente così, ma forse fa capire molto agli ascoltatori, si può agire anche con delle tecniche magari non accettabili nei confronti di un umano, invece nei confronti di un gatto, di un cane, di un topo? Io amo gli animali e a questa tua domanda chiara do una risposta chiara. Sì, per me ha ragione il professor Ramuzzi, l'uomo, la sua vita, la ricerca, i farmaci, le tecniche di intervento e terapeutiche per consentire di migliorare sempre la nostra condizione di vita e delle generazioni dopo di noi, anche per me viene prima. E questo però non mi impedisce contrastare nei limiti del possibile molti aspetti di tutto ciò che c'è intorno al traffico di animali che poi vengono offerti per esperimenti, che sono trasferiti in condizioni di totale abbandono e di totale inutile sofferenza. E anche quindi su tutto ciò che intorno a quel mondo si muove. Mi rendo conto, può sembrare una cosa ipocrita, non voglio dire che sono, però alla domanda se l'uomo viene prima, per me la risposta è sì, viene prima. Lo chiedo anche a Michela Kwan, faccio anche a lei questa domanda, le piace come viene posta questa alternativa? Però è un discorso di fondo che bisogna trattare, se vuole anche filosofico prima che scientifico. L'uomo, un uomo vale quanto un cane o un gatto? Allora, le considerazioni che vorrei fare sono principalmente due. Innanzitutto, gli animali non vengono trattati come gli esseri umani nei test di laboratorio, questo è ben lontano dalla realtà che qualsiasi filmato che è riuscito a entrare all'interno del laboratorio ha potuto riprendere. Gli animali sono costretti fisicamente, violentati psicologicamente ogni giorno all'interno delle gabbie e subiscono atroci sofferenze e sono non parole di un animalista ma di una biologa che ha potuto leggere le sperimentazioni autorizzate dal Ministero della Salute da anni, che appunto rilascia autorizzazioni per sperimentazioni molto invasive che comportano anche sperimentazioni senza anestesia dove l'animale è completamente vigile, gli vengono impiantate elettrodi nel cervello, viene continua a essere fatta vivisezione e quindi purtroppo l'immaginario dello sabulario è ben lontano da quello che citava prima il professor Ramuzzi. La seconda considerazione che vorrei fare è che la domanda di base è sbagliata, non si può paragonare il valore della vita umana a quell'animale, non è questo di cui dobbiamo parlare. La sperimentazione animale è un fenomeno che coinvolge ancora moltissimi animali, circa 12 milioni soltanto in Europa e in condizioni pessime e purtroppo è basata su una ricerca che non serve all'uomo. Il modello sperimentale basato sull'animale non può essere attendibile, come lo dimostrano moltissime pubblicazioni scientifiche di cui purtroppo nessuno parla e hanno un alto indice fallimentare. Sì. Cioè lei contesta il fatto che la sperimentazione sugli animali sia utile per poi applicare le stesse tecniche, esatto, sull'uomo. Cioè contesta la base sull'uomo. Tutto, insomma. Esatto, cioè non è che dobbiamo dire l'uomo è più importante e quindi è giustificabile sperimentare su animali. Il principio, quindi il presupposto di partenza che sia utile è da cambiare completamente e quindi in questa ottica bisognerebbe implementare quelli che sono ricerche alternative. Ma mi scusi, allora le sperimentazioni sugli animali vengono fatte così per cosa? Per puro sadismo? No, assolutamente, questo noi cerchiamo sempre di non comunicare questo, non è che facciamo del ricercatore un assassino o stereotipi del genere, i stereotipi non valgono né da una parte né dall'altra. La cosa importante da sottolineare è che ci sono delle leggi che quindi sono oltretutto fortemente datate e obbligano la sperimentazione e la messa in commercio dei farmaci, come di altri prodotti, tutto viene sperimentato, anche le sostanze tossiche e le sostanze chimiche, non è soltanto un parallelo univoco verso i farmaci, che poi quindi obbligano questo passaggio sull'animale, che spesso appunto non essendo indicativo positivo deve comunque essere poi confermato sull'uomo, perché nulla che viene poi testato sull'animale viene automaticamente messo in commercio, ma comunque un passaggio sull'essere umano, perché appunto non attendibile, ed è questa la fase che dà sicurezza poi prima della messa in commercio. No, ma interessante questo, professor Remuzzi, la contestazione di Michela Kwan è dire non serve la sperimentazione sugli animali. E poi guardi, io so che lei è all'estero, ma il clima qui in Italia è anche, io dicevo per esempio, i comunicati di 100% animalisti, non so perché sono entrato nella loro mailing list, ma mi diverto molto anche e sono attento ai loro comunicati contro i deliri di Garattini, che insomma lei conosce bene anche all'Istituto Mario Negri, come lei, contro i deliri dei vivisettori, nessuna resa, cioè il clima è molto acceso quando si tratta di questi argomenti. Professor Remuzzi. Guardi, noi però secondo me dobbiamo parlare alla gente, non dobbiamo parlare agli animalisti o a chi si occupa con questo bruttissimo termine di vivisezione. Se noi parliamo alla gente dobbiamo dire che la tossicità dei farmaci per l'uomo non si può prevedere studiando gli animali. Questo è vero, è verissimo. Il comportamento dei farmaci, per esempio, è diverso nei topi, nei ratti e nei conigli rispetto all'uomo. Ma se i topi e i ratti non aiutano a prevedere quello che può succedere nell'uomo, aiuteranno ancora meno le cellule o le simulazioni al computer. Questa è una cosa di buon senso, lo capisce chiunque, ed è questo che la gente deve sapere. Se un farmaco per alleviare il dolore, mettiamo, fa sanguinare lo stomaco, lo possiamo vedere negli animali, certamente non con le cellule o con il computer. Se noi abbiamo avuto in passato manifestazioni di grave tossicità che gli studi sugli animali non avevano previsto, si cita sempre la talidomide per esempio, è solo perché non si sono usati abbastanza animali di abbastanza specie diverse e studiati in condizioni rilevanti per l'uomo. Per esempio, le conseguenze della talidomide in gravidanza si potevano prevedere benissimo se fossero state studiate su animali gravidi, e questo avrebbe evitato per migliaia di persone gravissime malformazioni, pensate. Il problema dell'uomo, certo, quando noi abbiamo stabilito che un farmaco non uccide la maggior parte dei topi a cui lo somministriamo, allora passiamo all'uomo. Ma siamo molto attenti a passare all'uomo con farmaci che non abbiamo prima sperimentato, almeno nei topi e nei ratti. E questo è il punto. Intanto 800 24 00 24, se volete intervenire in diretta. Noi, dopo l'informazione sul traffico, vorrei anche da Oscar Giannino capire, insomma, qua c'è anche stato un blitz, un fatto di cronaca, di persone che hanno compiuto un'azione illegale, di per sé per questo sono stati arrestati, come visto che parlavamo pochi minuti fa con Marco Cappato, che oggi infrangerà la legge olandese, no, per un altro motivo, cioè hanno compiuto un'azione illegale, sono stati arrestati, ora sono stati liberati. Vorrei capire il tuo parere di fronte a questa azione illegale appunto per la legge, che però in nome, dicono loro, di un interesse superiore, quello di salvare delle creature, degli esseri viventi, dei beagle. Tra un attimo. Allora, c'è Brigitte Bardot che dice: queste persone che hanno fatto irruzione a Green Hill hanno seguito il cuore e la ragione. C'è il professor Garattini, l'abbiamo ricordato, come il professor Remuzzi, che dice i test sono imprescindibili. C'è il sottosegretario alla salute Cardinale che tiene un piede da una parte e una dall'altra. Condivido alcune motivazioni dei manifestanti, ma non si può derogare alla legge. E c'è la società che gestisce che dice è un atto criminale quello che è stato fatto. Hanno fatto un'irruzione in una proprietà privata. Allora Oscar, qui che dobbiamo condividere? L'azione di questi giovani che hanno sottratto dei beagle dalla sperimentazione scientifica? In loro c'è un intento. L'intento è quello di attirare così l'attenzione, oltre che a intervenire sui singoli luoghi dove in questo caso è una multinazionale, la Marshall, che tiene in questa struttura 2500 cuccioli per la sperimentazione farmaceutica, di attirare l'attenzione di tutta la popolazione sul fatto che loro propongono che sia proibito in tutta Italia, con un'applicazione dell'articolo 14 della legge comunitaria, questo tipo di impianti, a prescindere, cioè che non si possa fare. Certo. Ecco, poi magari verranno spediti all'estero per quindi, la sperimentazione. Oltre a quello Italia, che ci diceva prima chi è intervenuto, cioè la denuncia delle particolari condizioni di sofferenza in cui sono tenuti, e se eventualmente è così, c'è il problema che loro sono impegnati in una campagna di dire questa roba in Italia noi proponiamo per legge che non si faccia più. L'impegno della Brambilla, per esempio, è sempre a richiamare che lei ha la proposta di legge e vuole che passi in Parlamento e poi in Parlamento non passa. Questo poi è il punto di fondo. Ma dal punto di vista, come dire, tu ne condividi un po' da Gattaro la motivazione? Tu l'avresti fatto? Tu avresti... Dunque, io capisco, ripeto, chi compie gesti pubblici, come era prima il caso di Cappato. In questo caso. Hanno compiuto gesti pubblici, si sono offerti all'inevitabile sanzione di legge, sono stati arrestati, gli resta sulla fedina penale, eccetera, eccetera, eccetera. Dopodiché il punto è quello di capire dal punto di vista normativo tre cose. Primo, esistono spazi intorno a questo tipo di attività economica per cui vengono compiute sofferenze in condizioni terribili, inutili? La risposta ci dice che sì, esistono. Punto numero uno, quindi c'è un problema di controlli. Secondo, c'è una questione, e qui entriamo invece nei temi sollevati da Remuzzi, che è quello dell'ambito delle sperimentazioni. E qui la mia risposta è che comunque le sperimentazioni servono, il problema è che bisogna attentamente vigilarle. Attenzione, bisogna vigilare sugli animali come bisogna fare a maggior ragione, con grande attenzione, e questo lo dico senza voler criminalizzare mai nessuno, anche quelle sugli esseri umani. Certo. Perché noi abbiamo avuto nella storia, non in Italia, ma nella storia, esempi di programmi di sperimentazione su umani che sono andati al di là delle disponibilità esplicite volontarie manifestate da loro, perché diciamo a volte le grandi multinazionali hanno fatto anche questo. Poi c'è una terza questione di fondo, e ho finito, che è quella posta dal movimento animalista, che dice: in Italia creiamoci Porto Franco, non lo facciamo e basta. Mm. E beh, che è un aspetto sul quale, questa è una battaglia legittima, una battaglia se uno vuole portarla legittima avanti. Michela Kwan, lei al di là delle adesso contestazioni a Remuzzi che dice, beh insomma, se non valgono le sperimentazioni sugli animali, a maggior ragione non possono valere quelle sperimentazioni sulle cellule, per esempio. Però lei condivide quello che hanno fatto a Green Hill questi attivisti, oppure è un'azione da appoggiare, oppure no? Dunque, purtroppo l'azione che hanno fatto, è giusto portare l'opinione pubblica concentrata su questo argomento, perché la sperimentazione animale viene in parte finanziata con i soldi di tutti i cittadini che pagano le tasse, e quindi loro devono sapere che cosa succede, quindi è giusto una trasparenza verso un mondo che per molti anni è rimasto completamente chiuso. Il gesto fatto a Green Hill purtroppo non serve a nulla, nel senso che non è questo il modo di salvare gli animali, è il modo per far parlare del problema. L'unico cambiamento per cui noi lottiamo, oltre all'informazione, è il cambiamento legislativo, dove al momento non c'è diciamo nessuna proposta di legge che vieta la sperimentazione. Questo non è assolutamente... Cioè, voi vorreste l'Italia Porto Franco, come dice Oscar Giannino, essere nella... Non c'è la possibilità, cioè oggettivamente non c'è nessuna legge al momento che vieti la sperimentazione. Ci sono delle proposte di legge che limitino perlomeno la sofferenza, obbligano l'anestesia. Legge si può sempre fare, eh. Guarda, se uno in Parlamento trova, cioè, ma lei lo vorrebbe, nel senso, in un'Italia utopica dal suo punto di vista? Vorrebbe non in un'Italia, in un mondo che, certo, io credo fermamente in un mondo senza le ricerche sugli animali. Al momento quello che però dobbiamo fare e su cui bisogna concentrarsi è quello di ottenere dei miglioramenti, perlomeno nella stabulazione e nell'utilizzo di questi animali, che hanno diritto di avere diciamo uno stato di benessere più alto rispetto a quello che c'è al momento, che praticamente rasenta lo zero, avere una forte implementazione dei metodi alternativi, che sono una realtà scientifica da più di 50 anni, di cui purtroppo nessuno parla. Non si fa informazione su questo ambito, e avere delle strette regolamentazioni che significano anche ispezioni e controlli, in quanto la legge italiana al momento non ne prevede nemmeno un obbligo. Lei però quindi... alla domanda di prima, siccome il professor Muzzi è stato chiaro e anche Oscar Giannini è stato chiaro a dire l'uomo conta più dell'animale, lei contesta alla base questa domanda, ma gliela rifaccio lo stesso, cioè lei se lo pone questo problema, se l'uomo conti più di come essere umano, poi se vuole per convinzioni religiose o no, o filosofiche, conti più di un animale? No, non me lo pongo, perché non è quello che mi viene richiesto per il mio lavoro. Nel no, certo, ho capito, ma avrà una sua convinzione. Avrà una sua convinzione, una sua idea. Ragionare in questa ottica è molto facile, potrebbe dare la giustificazione a tante cose che non vanno giustificate, quindi non è questo il punto della questione. Quando si parla di sperimentazione animale, se si vuole parlare di filosofia su quello che è il valore della vita umana, il valore della vita animale, allora entriamo completamente in un altro campo. Ma non è questo lo scopo della, immagino, della trasmissione che stiamo facendo. No, questo no, non è una trasmissione di filosofia, era però sapere la sua convinzione personale, questo la può dire se vuole, altrimenti la mia convinzione personale personale che l'uomo sia parte di un sistema evolutivo molto complesso, che abbia raggiunto un livello di intelligenza molto alto e sia, diciamo, a capo di un sistema neurologico molto complicato. Questo però, proprio per la sua complicazione fisica, neurologica e comportamentale, perché l'evoluzione ha formato anche il suo comportamento, l'ha reso completamente diverso dalle altre specie, unico nella sua nota positiva, ma completamente diverso dalle altre. Diverso, non migliore né peggiore, diverso. Professor Remuzzi, l'invito che faceva Oscar Giannino, cioè di vigilare anche più sulla sperimentazione anche sugli umani, sia lei che il professor Garattini parlate sempre chiaro quando su questo tema c'è anche da affrontare delle criticità del sistema, per esempio farmacologico, delle case farmaceutiche, delle sperimentazioni. Lei lo condivide? Cioè c'è un po' di opacità ancora? Certamente, se noi vogliamo fare un ragionamento su come si può migliorare la sperimentazione sull'uomo, sugli interessi dell'industria, su perché l'industria spinge un farmaco nuovo piuttosto che uno vecchio che magari è più efficace ma è fuori brevetto e quindi costa di meno, apriamo un discorso molto ampio sul quale il Negri è sempre stato estremamente attento ed estremamente critico. Sulla sofferenza degli animali e sul fatto che gli animali siano tenuti male. Sa, la sperimentazione si può fare bene e si può fare male, come l'avvocato lo si può fare bene e lo si può fare male, e anche le banche, i banchieri possono essere bravi e non bravi, e i politici. Noi parliamo di sperimentazione fatta bene, tutte le persone che conosco io, che sono ricercatori di tutto il mondo, la sperimentazione la fanno in modo impeccabile e gli animali non soffrono per definizione. Poi c'è un problema che avete affrontato, che è molto importante. Facciamo dell'Italia Porto Franco. Allora, io vi dico che cos'è la conclusione di un lavoro pubblicato su Science proprio in questi giorni. Sì, in 10 secondi, professore. 10 secondi. Sì. Abbiamo disperatamente bisogno di capire i meccanismi attraverso cui l'influenza HIV si trasmette dall'animale all'uomo. Non farlo significa esporre a rischio di morte milioni di persone al mondo nei prossimi anni. Questi studi si possono fare solo nella sperimentazione con gli animali. Che è quello che ha detto anche ieri il professor Garattini. Io ringrazio tutti, anche Oscar Giannino, Elisabetta Fusconi in redazione, e lascio la palla a Oscar Giannino. Ci troviamo domani.